Dai che strappi. Hola. Hola. Hola. Hola. Sta uscendo? Ma perché sta facendo questo rumore, tu che prima non lo facevi? L'ho fatto io. Scappa, perché c'ho il lineare attaccato. Avanti capri, capri, sei grisù altro che capri tu. Ma senti, ma io ho fatto dei calcoli, che una sera nella grondaia uno la può staccare e attaccare in 10 minuti. Se mi prendi la grondaia. Capito, ci rimbalzo coi piedi di piombo, ma perché è stato qualche uno che mi può fare qualche bidonata e poi diamo come va a finire la roba. Niente, ti volevo dire, al bazar, con Furio, qualche altra cosa ci hanno da prendere, cosa dici? Io no, sono al completo. Sono al completo, capito? C'è da vendere un apparecchio se ti interessa. Uno di quelli che ti conosce bene. Che apparecchio è? Ah, oh! Che è già? Prendi a letto. Sì, ma quanto? 100. Gava. Parole. No, negativo. Trasistorizzato. Che lo sto prendendo? Ti mettiamo d'accordo, va. Te lo vendo... Vediamo, là, ci mettiamo d'accordo qua più. Ci vediamo, te lo faccio vedere, se ti piace te lo prendi, non lo rompo. Ok. Stavo dicendo, ma cosa fa il tratto per il sacco, l'oppetto quadrato? Un apparecchio Intec, mi pare. Un apparecchio Intec. Intec è già. La gabbia. Intec è tutto completo, non so cosa è tutto ciabu. Sta stazione in base. Quello che ho io visto mai già, quello che ho comprato da Stefano, il Milan. Non l'ho visto, era lì. Ma questo si può aumentare di canali, no? Con la pensi? Lo so. Però io ho guardato i vecchi anni là, degli schemari. E ce l'ho però, e c'è questo apparecchino che ho io, però senza banda laterale. Oh, e ci sono modifiche che si possono fare o no? Io penso già che a PLN si possa bisogna conoscere le modifiche per farle, però non si possono fare così alla funzione dei rovini. Già, nulla perché non sta tanto di questa roba col PLN, certo. Però c'è due o tre pagine, c'è solo che quello lì è senza panda. Capo, avanti che mi chiamo. Io ancora sono, vai, stavo scherzando un po' fa. Perché l'ho alzato io il microfono, l'ho alzato, hai capito? Yeah, non c'è problema. Accettiamo gli schizzi. è per quello che ti schiama, perché l'ho alzato io. E bene, gli schizzi li accetti. Io ho tutto il gratis. Lo sai che mi dicevo quando ridi? Ridi di nuovo, fai un... Scherzo, mi volete fare questa volta? La risetta di Giulio? Scherzo, mi volete fare già questa volta? Non ce l'abbiamo fatto uno di scherzo. Tu sei convinto così, ma non è così. Non lo so. Allora, Giuseppe, io c'ho un'idea per uscire meglio, se ti alzavo. Tanto la risetta di Giulio, cioè. Facciamo l'antenna, la macro, va spada già, tipo spara con lo convinciamo che esce meglio. Tavappa. Giuseppe ci ha fatto una cultura in poco tempo, a parte la stazione che è discreta, adesso è bellina. In poco tempo ha speso un po' di soldi, però è stato forse uno dei pochi che ha cominciato e è andato avanti subito. Cosa? Anche io già ne ho roba già, questo c'ha un 40 canali, poi c'ho altro che nel 400, c'ha le bande, questo, un colore, transistorizzato, questo che sto usando adesso già. che io ci sono. Però capito, però mi devi dire, tu ti sei avvicinato a quella lì oppure sei avvicinata lì? Ho sei avvicinata lì, mi sono aspettando. Ti sei presentata, come si chiama Elena? Elena, ti ha scritto GP Elena. Era vicino a te sicuramente, capito? Sa che in modo lì è venuta a conoscerti. Ah, di Fabrizio, poi di quello lì. No, però lo sapeva già, perfino mi ha mandato, basta. Passioni che c'è sono diversi apparati e due lo parlo sono tre, due male che l'ho ascoltato tu. Però niente, ho tagliato subito corto già, perché io, hai capito, avevo già l'assistente, dovevo fare i bambini dell'asilo, non posso, ho capito, dilungarmi in certe chiacchiere nel servizio. Uno del telefono già gliel'hai dato, sì. Capito, non gliel'ho dato, non gliel'ho chiesto, voglio vedere la cosa, se ha un seguito e come va a finire. Mamma mia, gattino che bel casino, se ti intendi da morire, va bene così qua. Paura. Non c'entri nulla. Non dispiace, mica, non dispiace, però, capito. Gliel'ha mandato. No, non mi sa nulla di questa. No. Ti battono difficilmente che mi facciano mettere dentro il sacco già. Ehi, non te l'ha mandata come per quando, però stava lavorandoci, come faceva a mandartela. Sicuramente è una CB che ti ha sentito, ti conosce e simpatizza per te, lo esercito. Ah, vero. Beh, per gli altri no, se a me non mi ha mai visto in faccia, proprio per me fa. Pagava. E vabbè, capito. Magari se ci fossi stato io, avrei detto, ci troviamo stasera. L'altro che stavo urlando. L'altro è stato a fuoco, che sento. Lo sento io. Per te la parola. Antonio qua. Antonio, ti passo la palla a te la prossima volta. D'accordo, sia Peglia. La gabra. La gabra. Come era capito? Sexy era. Non mi piaceva già. Come era in ghisi, no? Non mi piaceva già, però nulla, ma come sono in quella zona già, è una cosa brutta. Forse non riesco a fare, perché ho gli ultimi contatti, capito? E non mi voglio fare notare da persone, perché poi vengono e buttano la zona, lo sa tutto il paese. E se riesci a tu a lanciare il bando, lo lanciano loro così. No, come si chiama già? È un'iniziativa che devo prendere io, non mi piacciono le donne che pigliano l'iniziativa loro. Ti piace conquistarle, là. Ma sì, però questo non lo so già, Non lo so, va bene, in seguito vedremo se si ripresenterà. La gatta. Vabbè, là. Già lo stai, quando ho bisogno di aiuto, gli amici sono sempre disponibili. Perché mi sono capitato in quel barattino, così ti ho conosciuto però sempre, non sono andato mai oltre già. Vabbè, cosa c'entra? La prima volta c'è sempre, capito? Casalinga, va bene. Prima volta, però, mi ha preso in un momento proprio già. Che c'ho altre cose per... Chissà se è vero che è andato... Niente di... prima che arriva anche a fare... Fantasia sarà... Anche di... Fantasia... Di anche modulando... C'è un CBL, la bu... Cui in persona... Cosa vorrete in quella formatura fea? Quella l'abbiamo fatta bene con la scritta, la CBL... Però... Macchina di questo... Allora, mamma mia, sono bella. Ma anche se non è casalinga, se di quelle donne che non stanno in casa che lavorano, fa bene lo stesso. Io quando me. Allora, ho sentito dire che non so se sia vero, non lo so. No, non te lo so dire. Ho sentito che ci sono queste cinquantenni che ti danno 500 euro se ti danno una portarella. No, quanto sono 50? Ehia, magari quello un po' cicciottelle, dai. Tu vai di là, mi usi una bottola, una botta là. Ehia, tu dice, mi sono informato. Ha detto un amico mio che dice che ti dà, dice con 20 euro se dà una bottarella. E va deve piacere, signore. Le colleghe che tra l'altro sono tradite, si raccontano tutto, Basta che tu fai, per dire, gli dai modo di dirle che è carina, che cosa, e si invaghisce subito dei maschi. E allora io ho progettato una storia, le ho telefonato dicendo che ero rappresentante, che l'avevo vista in negozio e che mi era piaciuta davvero, che trovo un debole, che io trovo un debole per lui. Gli ho dato l'appuntamento vicino al negozio, all'uscita da lavoro, e si è fatta trovare davvero, si è fatta trovare, e sono venute tutte le colleghe, erano nascoste, di qualche altro, ridendo, che bastardi! E già avevo riso io, già. Via, ne ho bisogno in giro. Si è bastardo, mi ha perseguito dopo tutto quanto via Sardegna. Andare, ui, se ne sentono. No, ma io a livelli così scherzi non ne ho mai fatto. A livello di mandati gente, no, quello lì, magari così in radio sì, ma di mandati gente no. Specialmente sul posto di lavoro che un po' mi rode, dai. Basta che lui non ti ha capito, che mi conosce benissimo. Perché mi ha chiamato anche Fabrizio, mi ha chiamato le 5, e qualche cosettina la sapono portare a farlo, è vero. Sarà che non sono sempre in servizio, già, capito, esco anche da lavorare, poi in capire una chiesa non sa farli. Ah, lui sì, non è che lo rinneghi allora, ah, la giusti. Già, se tu pensi, sentite. Ma non ti spiace, però, ripeto, una Nintendo, capito, una parte che non è da lei, è capito, le voce di io sarebbe, capito, fare certe cose. Così è la colpa lì, se ti sgama, tu dici, no, è stata lì. E quindi non era più filosofica perché c'era gente già e... E gli fanno la palla, subito, senta chi è, ti capito perché, ascoltano e poi buttano la bomba e prendono. Ammirami, magari c'è gente che c'è il baracchino e sta ascoltando quello che dici. E la putti in mezzo, il baracchino può raccontare quello che vogliono. Ma magari lo tieni in scuola, bussano i trovetti. No, non me ne mettono, mai me ne ho messo. Mai, già, io poi sono scuola, voglio portare a testa a quello che sto facendo. E un grido. Salvo, se c'è qualche cosa, sono bambini dentro, si... non c'è pacchino. Perché ogni tanto nell'asilo c'ho questa assistente, nelle medie non ne ho, nelle elementari non ne ho. E quindi devo dare un'occhiata che non si vestigino, che non mi aprono finestrini, un ducato, l'altro è 55, c'è cioè, già in alto sono piccoli. Ma quello sarei molto attento da questo Ducato. Ah, vedi Ducato sono. Come? Ma so Ducato. E adesso c'è un Fiat Ducato, scusa, non è un tuo fulmine. Paga, facciamo che non si possa guidare con la B, vero? Se vuole la patente di K, o B o CQG. KK. E vabbè, comunque è andato, va. Ma da Monzene lo sa Luddano? Come? Tra Monzene e Ludda sa? No, ho detto, non posso anche dire, non me ne è fregato di tacco già. Sì, magari, boh. Ho te l'ha fatto qualcuno del paese, lo scherzo. Perché noi no, perlomeno. La greffa nostra, che siamo qua a Sassari, no. Ma tu, perché poi mi ha chiamato Fabrizio, quello c'è il palacchino nel... e quindi trasporta la merce e il suo fratello, fare qualche cosa per così per ridere, per fare, però non me ne frega più di tanto già. La gara, sì, chi l'aveva buttato giù, non te lo dico. Ok, ne ho per voglio andare in giro di, però niente, non avevo lavoro in domo, già hai capito, sono a casa, sono in... Non ho voglia di mettere interminiale, proprio come le pensavo nei canali, che conosce Vattuessa, che mi conosceva da quando studia quei geometri, e lui si dice un mezzo carlino. Cavagama, come ho visto un film che questa qua si è accasata in una casa dove c'era il tipo che stava, che praticamente è stato il suo ex ragazzo, lui era sposato, adesso con la moglie, con tutto questo qua, gli ha suonato il campanello, gli ha messo la valigia davanti alla porta, e ha detto ti ricordi di me? E lui ha detto no, non mi ricordo, va via, via, via, vai via, gli dicevano, e la moglie, chi è? Ah, quando era già buttata, si sembra da Trento, una super bonata, tutta sexy, no? È entrata dentro casa, si è subito accasata. La rupa era bella, il nome, noi l'abbiamo vista, cosa state? L'ho detto quando ero in servizio col pullman, proprio un, diciamo, incrociati, nella solita di Simano, già si passava le trenta lì, ma giusto, siamo rimasti, non dico molto, 3 minuti guardandoci in faccia, così. Allora, un casotto, un po' di un casotto, magari lo fanno per scherzo e poi fanno bisticciare la famiglia, non va bene. Ah, queste cose proprio per quello glielo fanno, lo fanno proprio così a lì, guarda, fa lo scherzo, diventa pesante la roba, hai capito? E niente, bisogna essere, hai capito, proprio prudenti. Yeah. No. C'è una matta gratti tu piacete sicuramente per farti cascare, magari quando tu facevi qualche avance, strac e scattavano la foto, te l'immagini. No, se voglio già so come fare, ti riesco pure, però non è il momento, mi hanno trovato in un momento che sbagliato forse. E chi? Triste esiste. Ma questo lo vado a pensare in questo periodo, sto pensando di se riesco a trovare una donna a mio figlio e niente, c'è quello che avrei su per lui, che ha poco voglia di studiare, di altre cose per le cose, quindi non sto pensando a fare lo scemo con nessuno. Per trovare la donna a tuo figlio? Ma come, sto cercando. Ma non c'ha l'esperienza, è quello che c'è, non ti invidia, lì di voi, non ti dico l'esperienza, ma se uno non lavora, come fa a farsi l'esperienza? Punto. Lì bisogna viaggiare con un autista esperto, affiancato con un altro autista, l'unica è quella, se no ha capito una buona esperienza, non fa mai quelle arrivati a questo punto. Cioè per forza da un gradino devi partire. Ma questo autotreno comprarlo devi o no? Io la mala motrice, se voglio già ce l'ho, capito, anche a conferire la trovo, capito, ci sono i continenti che per una pesceria te le tirano addosso. Ma io ti consiglio di non prenderla, perché c'è stata gente che l'ha presa e poi non ce l'ha fatta pagarla perché l'ha a poco. Qui la contratta una, l'ha pagata 20.000 euro già. La usa per trasportare a ganche, per trasportare legname, però questo è per uno proprio, e ce l'ha, e lo vide, non è specie, ia. Ehi. Ma voi capolura, ti saluto che mi ero preso un po', e poi devo uscire, là. Ci sentiamo le prossime, buona serata, ciao. Ma se già, ci sentiamo, sono andato fuori anche io. Sto vado a fare il mio servizio. Stanotte quando mai già se ci siete già mi affaccio. Ciao, buon riposo. Ah, ciao, buonanotte, ma buon riposo. E 5 minuti ancora, perché tu mi devi alzare, no? Ci sentiamo.